in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla rassegna stampa di Radio 24 dei giornali italiani. Oggi il tema principale è ancora la riforma del lavoro, il Jobs Act, però ci sono molte altre notizie. Le prime pagine dei giornali scelgono di dare pesi diversi a queste notizie e scelgono anche fotonotizie diverse. Cominciamo dal Corriere della Sera, che ha un titolo anche se di quelli piccoli, diciamo, però è il titolo principale: Jobs Act, scontro nel governo sui licenziamenti degli statali. Avete sicuramente sentito già fin da ieri, questa è la polemica, perché alcune delle regole introdotte dal Jobs Act per i licenziamenti, che restano il nodo fondamentale o almeno quello su cui si concentrano le polemiche, non valgono per i dipendenti della pubblica amministrazione. Il ministro del lavoro Poletti ha ribadito che le nuove regole valgono soltanto per i privati e il sottosegretario Zanetti, sottosegretario all'economia, ha contestato il ministro del lavoro definendo sconcertante questa precisazione. Sul Corriere della Sera a pagina 2 trovate sulla Repubblica trovate un'intervista di cui poi leggeremo una parte proprio a Poletti. Vi dicevo, foto notizie diverse. Il Corriere della Sera ha scelto una foto scattata ieri al funerale di uno dei due poliziotti uccisi, degli agenti uccisi proprio a sangue freddo, ricorderete, da un giovane che a Brooklyn si è avvicinato a un'auto in cui c'erano due poliziotti e gli ha proprio sparato così a bruciapelo. Ieri c'è stata una protesta silenziosa di tutti i poliziotti che hanno partecipato ai funerali, perché quando ha preso la parola il sindaco di New York Bill de Blasio gli hanno girato le spalle. Massimo Gaggi da New York ci racconta il giorno dell'orgoglio e della rabbia silenziosa per i poliziotti d'America. Al funerale di uno degli agenti uccisi a New York il bersaglio è ancora il sindaco Bill de Blasio, lui parla e i poliziotti si girano. Sapete che un po' all'origine di questa frizione tra il sindaco di New York e gli agenti di polizia ci sono alcune prese di posizione dello stesso de Blasio, che aveva in un certo senso dato ragione a chi sostiene che la polizia è in parte, perché qui naturalmente tutti i condizionali e tutti i sono d'obbligo, perché poi è pericolosissimo generalizzare su questi temi, però stando ai numeri spesso è vero che giovani neri, a volte addirittura disarmati, vengono uccisi da poliziotti bianchi, e quindi l'accusa alla polizia in generale, alla polizia americana, di essere razzista. Tra l'altro Bill de Blasio, sapete, è sposato con una donna afroamericana, quindi è toccato personalmente dal problema dell'integrazione e delle tensioni razziali. Sta di fatto che quando poi si è verificato questo evento, questa quasi un'esecuzione di questi due poliziotti, è scattata anche la reazione degli agenti, che non si sono mai sentiti difesi, spalleggiati, sostenuti dal sindaco. Una ripresa di Fiorenza Sarzanini sul tema degli sbarchi, ne abbiamo parlato anche ieri. Il titolo del suo pezzo è "Fallito il piano antisbarchi", questa è la cosiddetta operazione Triton dell'Unione Europea, che sostituisce Mare Nostrum. Le navi dovevano fermarsi a 30 miglia dalla costa, ma in realtà poi appunto gli sbarchi proseguono. In due mesi sono arrivati 16.000 nuovi migranti e i tecnici del Viminale hanno detto alla Marina che i soccorsi vengono fatti troppo al largo. A pagina 2, a pagina 3 trovate tutti gli approfondimenti su questa vicenda. Poi c'è un articolo divertente di Beppe Severgnini che prende spunto da una statistica che trovate anche su altri giornali, che rivela come soltanto un italiano su quattro si fermi o rallenti davanti alle strisce pedonali. E allora Beppe Severgnini scrive: il senso civico dimenticato davanti alle strisce pedonali. Vi leggo la prima parte, poi continuo a pagina 27. La strada è il palcoscenico del carattere, rivela come sono fatte le persone, le città, le nazioni, più della politica, del cinema e dello sport, che consentono di fingere o nascondersi. Scoprire che solo un quinto degli automobilisti italiani dà la precedenza ai pedoni sulle strisce non è una nota di costume, una curiosità di fine anno, è un piccolo, pessimo sintomo. È la prova che esiste in Italia qualcosa di malato che non vogliamo curare. Al volante, dentro l'auto che non si ferma per lasciar passare i pedoni, non sta un alieno. C'è quasi certamente un normale cittadino che, appena trova una pagina Facebook, un microfono e quattro ascoltatori, protesta, si indigna e invoca il senso civico. Ma quando può dimostrare di possederne, se ne ne dimentica. Nel luogo più ovvio, consueto e quotidiano, la strada, si comporta esattamente come gli italiani che detesta. La prima pagina della Repubblica, anche in questo caso il titolo è dedicato alla riforma del lavoro, no a trattative, il Jobs Act non si cambia. E appunto vi dicevo su Repubblica l'intervista al ministro Poletti che spiega come questa legge valga soltanto per il settore privato. La fotonotizia è dedicata a Ali Agca, che sapete ieri è andato a rendere omaggio sulla tomba di Papa Giovanni Paolo II, gli ha portato un mazzo di rose bianche, appunto in questa foto lo si vede con i fiori in mano. I fiori di Ali Agca per Foitila e poi il fatto che abbia anche detto che vorrebbe incontrare Papa Francesco. Ricorderete naturalmente Ali Agca è l'uomo, all'epoca apparteneva all'organizzazione terroristica turca dei Lupi Grigi che il 13 maggio del 1980 sparò a Papa Wojtyla rischiando naturalmente di ucciderlo, però poi naturalmente il Papa si salvò, i due poi si incontrarono, lì già trascorse un periodo in carcere e poi fu liberato. Adesso tra l'altro sarà espulso dall'Italia perché risulta che fosse entrato in modo illegale. Ma vi dicevo l'intervista al ministro Poletti, che trovate a pagina 2 e pagina 3, intitolata "Il Jobs Act non si tocca e grazie a questa riforma che anche i giovani avranno più diritti e opportunità". E la prima domanda, che è un po' quella che ci insomma, forse quella più ovvia, che però poi la risposta ci vedrà impegnati a seguirla nei prossimi giorni, perché appunto di questa riforma si continuerà a parlare. Ministro, chiede Roberto Mania, può cambiare il decreto? Poletti risponde: formalmente lo schema di decreto delegato è modificabile, le commissioni parlamentari esprimeranno i loro pareri e le loro proposte, il governo ha la facoltà di accoglierle o meno, la competenza del governo. E quindi appunto vedremo quanto dura, quanto inflessibile, quanto poco cambiabile sarà la posizione di Renzi, che continua a dire quanto sia importante questo decreto sul lavoro, quanto sia fondamentale questa riforma anche per dare un segnale forte all'Europa che veramente si fanno quelle riforme del lavoro, e poi verrà anche quella della giustizia e della burocrazia in generale, che danno l'idea di un paese che veramente vuole cambiare. Il Sole 24 Ore naturalmente parla del Jobs Act e lo approfondisce come aveva già fatto ieri, ma il titolo principale è dedicato in realtà alla riforma del fisco. Reati fiscali, salterà un processo su tre. Allentata la presa sugli illeciti contabili, sugli illeciti collegabili alla crisi. E con queste, ci sono quindi queste nuove soglie di punibilità che vengono analizzate dal Sole 24 Ore a pagina 3 e poi anche con altri approfondimenti a pagina 11 e a pagina 8. Con le nuove soglie di punibilità vengono azzerati molti procedimenti, per esempio per l'omesso versamento dell'IVA e delle ritenute, appunto legate spesso alla crisi. C'è poi un intervento diretto, non un'intervista, ma proprio un intervento di Piercarlo Padoan, che è il ministro dell'economia, che cerca di spiegare proprio con parole sue che cosa vuol dire per l'Italia riconquistare la fiducia dell'Europa grazie alle riforme. Più stabilità per colmare il deficit di fiducia, uniti per una nuova governance politica ed economica. Quindi anche l'ennesimo tentativo di apertura di un'offerta di collaborazione all'Europa, per quanto naturalmente siano molti i temi su cui l'Italia e Bruxelles, ma non soltanto l'Italia, anche altri paesi continuano a discutere, sui naturalmente tutti i vincoli del patto di stabilità e tantissimi altri vincoli imposti da Bruxelles con il forte appoggio di Angela Merkel, cancelliere tedesco. La lettera al risparmiatore, che ogni domenica il Sole 24 Ore pubblica a cura di Vittorio Carlini, e sapete si concentra su un titolo quotato per cercare di spiegare ai risparmiatori, a chi magari possiede già azioni di quell'azienda o chi magari vorrebbe comprarle, quali sono i vantaggi e gli svantaggi. Questa settimana è dedicato alla Prysmian, una società legata comunque al business delle telecomunicazioni e dei cavi. Prysmian più TLC e cavi sottomarini per sostenere la redditività. Trovate tutta l'analisi dei bilanci e le considerazioni di Vittorio Carlini a pagina 12. Abbiamo ancora qualche minuto, vi racconto un po' la prima pagina della Stampa, anche in questo caso Jobs Act, il titolo "Riforma del lavoro, statali esclusi", è proprio questo il nodo, è indubitabile. Quindi il Jobs Act agita la maggioranza perché ci sono le solite contestazioni all'interno del PD, e la Stampa ha una intervista con il ministro della pubblica amministrazione Madia, ecco perché le nuove regole valgono solo nel privato, cerca appunto di spiegare quella che diciamo ai profani, più o meno profani, sembra un'anomalia inspiegabile. Sulla fotonotizia, come per il Corriere, è dedicata al funerale del poliziotto ucciso a New York. La polizia volta le spalle al sindaco, anche in questo caso appunto il racconto della protesta, delle ragioni della protesta. La prima pagina del Messaggero, statali liti sui licenziamenti, quindi vedete anche qui lo stesso tema. E poi una notizia che viene ripresa poi a pagina 6, un'analisi di come già a gennaio in Parlamento si parlerà di accorpamenti delle regioni. L'obiettivo naturalmente è risparmiare, arrivare a quelle macro regioni che permetterebbero grandi risparmi, si spera maggiore efficienza. Ci sarebbe un ok di massima di tutti i governatori, cioè i presidenti delle regioni. L'obiettivo, pensate, sarebbe di arrivare addirittura a descendere da 20 le attuali regioni a 5. E vi segnalo poi dalla prima pagina del Messaggero un intervento di Romano Prodi, come quasi sempre alla domenica sul quotidiano romano, e è dedicato al salvataggio dell'Ilva, la grande acciaieria di Taranto, che sapete verrà, lo abbiamo letto ieri sui giornali, verrà nazionalizzata a termine, cioè per 3 anni, il tempo che si spera sufficiente perché si riprenda. E secondo Romano Prodi questo è un punto di partenza, il salvataggio dell'Ilva come punto di partenza per ricostruire una politica industriale che in Italia non c'è più da molti anni. Sulla prima pagina dell'Avvenire, se fosse per lo Stato saremmo disperati, l'appello delle famiglie numerose che oggi verranno ricevute dal Papa, e per famiglie numerose si intendono le famiglie che hanno 4 figli o più, ma come vedremo dall'Avvenire c'è anche chi ne ha 16, è una piccola percentuale, ma si arriva a questo numero incredibile di figli. In primo piano. Rieccoci ancora, buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli. Eravamo sulla prima pagina dell'Avvenire, che è dedicata all'incontro che ci sarà oggi tra il Papa e le famiglie numerose, che festeggiano tra l'altro 10 anni di associazione. Le famiglie numerose arriveranno dall'Italia, ma anche da altri paesi europei, sono definite come le famiglie che hanno almeno 4 figli. Ma la fotonotizia dell'Avvenire, come sempre diverso, originale, come spesso diverso, originale rispetto agli altri giornali, è dedicata al nuovo canale del Nicaragua, che sarà un po' un nuovo canale che, secondo Avvenire, sfida Panama, verrà costruito soprattutto da aziende cinesi. La prima pietra è stata posata il 22 dicembre, è un'opera monumentale, 278 km di lunghezza, tre volte più lungo del canale di Panama, 30 metri di profondità, ed è appunto stato affidato a costruttori cinesi. Ci sono però molte proteste perché c'è un impatto ambientale molto forte e non è ancora chiaro appunto quanto lavoro darà e quanto invece sarà un'opera che beneficerà soprattutto le aziende cinesi che hanno vinto gli appalti. E come vi dicevo, una notizia, io ignoravo tra l'altro dell'inizio della costruzione di questo canale, come sempre Avvenire ha il merito, secondo me il grande merito, di parlare di cose che gli altri giornali più o meno in buona fede ignorano, ecco. La prima pagina di Libero è dedicata a Napolitano, il presidente, quel che Napolitano non ho il coraggio di dire, è un po' un'anticipazione del discorso di Capodanno che farà il Capo dello Stato, e sarà il suo ultimo, perché poi entro gennaio, probabilmente addirittura entro la prima metà di gennaio, Giorgio Napolitano si dimetterà. E Maurizio Belpietro scrive: tra pochi giorni Giorgio Napolitano si congederà dagli italiani, anche se le dimissioni saranno presentate probabilmente il 13 gennaio, in concomitanza con la fine del semestre italiano alla guida dell'Unione Europea. Il discorso di Commiato avverrà quasi certamente il 31 dicembre, con il consueto sermone che ad ogni fine anno il Presidente della Repubblica dispensa agli italiani, insieme con gli auguri e i brindisi. Non vogliamo qui ricordare la carriera politica di Giorgio Napolitano, che in 90 anni è stata costellata di molte scelte sbagliate, a cominciare da quella risaputa dell'appoggio all'invasione d'Ungheria. E Belpietro, come si capisce chiaramente, è un chiaro oppositore di Napolitano e delle scelte che ha fatto negli ultimi mesi, negli ultimi anni. E quindi questo pensiero è riassunto anche nel sommario: agli italiani dovrebbe confessare d'essersi piegato a poteri esteri per far fuori il cavaliere, ammettere i flop di Monti, Letta e Renzi e scusarsi perché lascia il paese più povero e senza riforme. Non lo farà, brindiamo al suo addio. E poi così quasi un divertissement: le Quirinarie di Libero, 6 nostre firme di Libero, votano il prossimo presidente. Allora, per Mario Giordano, ci teniamo l'euro? Allora voglio la Merkel. Giancarlo Perna, se non si può Draghi, eleggiamo il suo sosia, cioè Lorenzo Bini Smaghi. Gianluigi Paragone, premiamo il merito, il maestro la scienziata, il maestro sarebbe Riccardo Muti. Ugo Bertone, sogno un marziano di nome Marchionne. Antonio Sacci parla di questa signora che si chiama Paola Bonzi, che è responsabile di un'associazione che alla Mangiagalli convince le donne a non abortire, quindi Antonio Sacci, Paola che ha salvato 17.486 bambini. E infine Nino Sunseri, il commissario Bondi, Enrico Bondi, sapete, l'uomo che ha risanato la Parmalat per esempio per vendere il Colle. La prima pagina del giornale, follia, la Lega è banda armata. Questa è una notizia di ieri che forse alcuni di voi avranno anche visto su Twitter. Io ho visto molti commenti a questa notizia. Alessandro Sallusti, direttore del giornale, firma il pezzo di copertina. Dopo 18 anni di indagini, rinviate a giudizio 34 innocue camicie verdi. Per i magistrati buonisti con i bombaroli in OTAV, erano un'associazione militare. Effettivamente una sentenza, forse non è giustizia farsa come la definisce il giornale, però sicuramente è una sentenza, diciamo così, bizzarra. La fotonotizia è dedicata alla vicenda dei due fucilieri di Marina, che sapete sono uno in questo momento è in Italia per curarsi, l'altro è ancora in India, stanno aspettando un processo, lo stanno aspettando da 3 anni, sono accusati di aver ucciso un marinaio indiano, però appunto soprattutto il problema più grosso è che questo processo ancora non si fa e intanto a uno è stato concesso di tornare in Italia per curarsi, l'altro è ancora prigioniero in India e non si vede uno spiraglio per la risoluzione di questa crisi diplomatica come abbiamo visto nei giorni scorsi, nelle settimane scorse. La Mogherini oggi fa la dura, ma voleva più legami con l'India, ci ricorda Fausto Biloslavo, che fa un po' riassunto di quello che è successo e soprattutto ci spiega a che punto siamo in questo momento. Dall'Unione Europea piovono aiuti per l'India per 470 milioni. Naturalmente è un po' così, un po' fuorviante secondo me mettere insieme tutte queste cose, perché è una vicenda che vede contrapposta proprio la diplomazia italiana e quella indiana, l'altra, quella degli aiuti dell'Unione Europea, è una vicenda un pochino diversa. Il Fatto Quotidiano, Quirinale, corsa nel caos, quindi anche in questo caso l'analisi, come ha fatto Libero, è dedicata all'imminente elezione di un nuovo capo dello Stato. A un mese dal voto per il Colle, gioco al massacro per bruciare i candidati. L'editoriale invece di Marco Travaglio, come al solito, al vetriolo, in questo caso veramente quell'ironia che un po' è destinata a creare tensioni, qui è tutta dedicata al nuovo libro di Giuliano Ferrara su Matteo Renzi, che viene appunto, diciamo pure, deriso da Marco Travaglio. Il Manifesto, la mela marcia, la mela è intesa come la grande mela, che è il soprannome con cui è conosciuta New York. La fotonotizia anche in questo caso dei poliziotti che si sono voltati di spalle per protestare contro il sindaco De Blasio quando ha preso la parola ai funerali di uno dei due agenti uccisi. I poliziotti di New York mettono di nuovo in scena la clamorosa protesta contro il sindaco, colpevole di aver condannato le violenze sui cittadini afroamericani. C'era anche il vicepresidente Joe Biden che ha invece esaltato un po' la folla e ha definito i poliziotti di New York la miglior polizia del mondo. C'è naturalmente anche sul Manifesto un approfondimento sul Jobs Act. Poletti salva gli statali, per loro niente Jobs Act. La Gazzetta dello Sport ha una copertina dedicata al colpo di mercato di ieri, Cerci-Milan, colpo d'ala. E qui io tra l'altro mi devo anche scusare perché, come mi ha fatto notare un ascoltatore su Facebook, io ieri ho detto che Balotelli gioca nel Manchester, invece Balotelli gioca nel Liverpool. Forse una parte di me lo sapeva, ma devo anche dire che faccio un po' fatica a star dietro a tutti i cambiamenti di maglia di Balotelli, non essendo appunto una sua fan particolarmente precisa, quindi faccio un po' confusione. Poi non conosco così bene il campionato inglese, però adesso me lo ricorderò per sempre che Balotelli, finché è così, è in Inghilterra e gioca nel Liverpool. Ma veniamo alle pagine interne dei giornali. Sul Corriere della Sera c'è un articolo di Sergio Rizzo E che uno di quegli articoli che, come dice Alessandro Milan, dà mani sul volante perché fa venire molta rabbia. E il tema è quello della spending review e in particolare quello degli enti inutili e dei resistenti della poltrona, tutte le tecniche di sopravvivenza. E Sergio Rizzo ci elenca i casi delle società salvate in extremis da emendamenti in Parlamento. Ci sono tra l'altro quattro foto, vi leggo tanto per farvi capire appunto il tenore dell'articolo. Non so, per esempio, Mario Baccini, che è un ex ministro della funzione pubblica, 57 anni, nel 2005 fondò l'Ente per il Microcredito, che fu poi chiuso dal governo Monti e resuscitato con un emendamento di Baccini stesso alla legge di stabilità, e mantiene 1,8 milioni di fondi pubblici. Oppure, non so, c'è Antonio Marzano, che è presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, che tra l'altro il DDL di riforma costituzionale voluto dal governo Renzi ha estinto, diciamo così, il famoso CNEL. Marzano, 79 anni, perderà l'indennità con l'estinzione del CNEL, ma ritroverà il vitalizio da parlamentare. E così avanti, insomma, sono ancora veramente, la spending review è veramente un miraggio, diciamo così, in Italia. Poi c'è un reportage molto interessante di Andrea Nicastro dall'Afghanistan, intitolato Kabul addio, dopo 13 anni di scontri è tempo di ritiro. Ecco come vivono e cosa provano gli ultimi militari italiani in Afghanistan, rimasti a coprire le spalle a chi parte e a difendere i civili che restano. Poi dalle pagine interne di Repubblica invece vi leggo la maca di Michele Serra, che con qualche giorno di ritardo rispetto alla cronaca, ma forse appunto i commentatori possono permettersi questo, cioè di non rincorrere la cronaca, ma di magari riflettere, pubblicare un commento quando gli viene qualche cosa da dire. In questo caso la vicenda è delle due ragazze saudite che sono accusate di terrorismo perché hanno violato il divieto vigente in Arabia Saudita di guidare. Le donne non possono guidare in quel paese. Per arrivare ad accusare di terrorismo due ragazze che rivendicano il diritto di guidare l'automobile, bisogna essere appunto terrorizzati. Dal loro punto di vista, le autorità saudite, non si capisce bene se giudiziarie, religiose, politiche, la separazione dei poteri in quelle società non è data, hanno perfettamente ragione a considerare la donna al volante un pericolo per le istituzioni. Se una società si regge sulla soggezione totale della femmina al maschio, allora ogni donna che guida è un attentato all'ordine costituito, perché disponendo della propria mobilità diventa una persona autonoma che può decidere dove andare ed è in grado addirittura di andarci da sola. È questo da sola, senza dubbio, che manda nel panico il potere maschilista, perché nessuna effrazione più grave è concepibile di questa inaudita libertà dal maschio, dal clan, dal marito, dal padre, dai fratelli. Una donna libera, anche se la sua libertà consiste solo nell'andare a comprarsi un paio di sandali e a fare due chiacchiere con un'amica, mette in agitazione anche parecchi nostri maschi apparentemente emancipati. Figurarsi una società patriarcale, non solo nella sostanza, ma anche nella forma, come quella saudita. Una donna sola in gran parte del mondo è ancora in grave sospetto di essere puttana o pazza. La civilizzazione degli esseri umani è appena ai suoi albori. Ma veniamo alle pagine interne del Sole 24 Ore, perché oltre a, come vi dicevo, agli approfondimenti sul Jobs Act, c'è a pagina 5 un articolo di Moria Longo che fa l'analisi di tutti i titoli di Stato. In Europa, spiega Moira, 450 miliardi di titoli sotto zero. Il paradosso: aumentano i debiti pubblici, ma sei paesi si finanziano a tassi negativi. E poi l'analisi di Walter Riolfi, che cerca di fare delle previsioni su quali saranno i titoli star del 2015. Secondo Walter Riolfi, il nostro collega di finanza, le star della borsa saranno le stesse del 2014. Gli analisti si figurano rialzi a due cifre per l'indice Standard & Poor's 500, sebbene siano state tagliate le stime degli utili. Dalla Stampa un interessantissimo reportage di Gianluca Paolucci dalla Malesia, che ci spiega che cos'è il business dell'oro rosso, cioè le palme da olio. Dai saponi ai biscotti, l'olio di palma è presente in quasi tutti i prodotti. Il boom dei consumi dei paesi emergenti mette a rischio le foreste, perché naturalmente per piantare queste palme da olio vengono deforestati, vengono magari abbattuti altri tipi di albero. Per esempio c'è una foto di una foresta data alle fiamme per avviare nuove piantagioni nell'isola di Sumatra. Dal Messaggero vi segnalo un articolo sulla vicenda degli iscritti fantasma nel PD. Sapete che il PD romano è nel caos per tutte le collusioni e le intersezioni, possiamo dire così, con l'inchiesta Mafia Capitale. È stato chiamato Matteo Orfini, presidente del PD, a mettere ordine nel PD romano, e con un'indagine si è scoperto che ci sono proprio questi iscritti fantasma. Orfini ieri ha dovuto ammettere che è il commissario del PD romano nominato da Renzi. È vero, iniziamo a riscontrare anomalie molto preoccupanti. C'è questo schema che fa vedere quanto la situazione del PD romano sia comunque molto, molto grave, preoccupante per il PD stesso. Pensate, nel 2009 gli iscritti erano 27.000, adesso sono scesi a 9.000, ma se poi alcuni di questi sono fantasma, allora sono veramente molti meno, il numero è sceso drammaticamente negli ultimi 5 anni. Vi dicevo delle famiglie extra large, così le chiama l'Avvenire, la carica dei 150.000. oggi ci sarà quest'udienza in Piazza San Pietro, e come vi dicevo l'1% di queste famiglie ha addirittura 16 figli, e poi naturalmente molti, invece la maggior parte, hanno 4 figli, poi 5, 6, 7, 7 ancora, ci sono 1663 famiglie con 7 figli, poi quelle che ne hanno di più sono naturalmente un numero molto più piccolo, però ci sono. Ci lasciamo un attimo per il traffico, ci ritroviamo subito dopo con gli approfondimenti un po' dedicati alla cultura, tipici dei giornali della domenica. In primo piano. Ancora buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, ben ritrovati per l'ultima parte della nostra rassegna dedicata un po' agli approfondimenti culturali. E allora vediamo dall'Avvenire, nell'inserto Agorà, una bellissima intervista a Douglas Rushkoff, che è uno dei teorici del web, che spiega che i nuovi media rallentano il pensiero. I nuovi media intesi soprattutto come i social network, quindi Twitter, Facebook, Instagram, tutti questi appunto social network. Non credo, dice Douglas Rushkoff, che si sia obbligati a inseguire le evoluzioni rapidissime della tecnica. Alcuni strumenti sembrano fatti apposta per distrarci dai problemi veri. È una nuova forma di relativismo che serve al business. Chiede Jacopo Guerriero a questo teorico del web: il futuro è alle nostre spalle, ci salveranno le arti e l'umanesimo, sembra dire il suo libro, perché appunto Douglas Rushkoff ha appena pubblicato questo libro, Presente Continuo, per le edizioni Codice. Certamente, non solo perché l'arte è un modo per gli esseri umani di esprimere ciò che ci rende speciali, ma soprattutto perché l'arte ci aiuta a ricordare che gli esseri umani sono eccentrici e si pongono sempre in ambiguità. Da sempre sostengo che una delle migliori attività umane sia, per così dire, giocare con i paradossi piuttosto che pensare di risolverli. L'arte è meravigliosa per questo, perché ci aiuta a celebrare l'incertezza. E poi un approfondimento sugli aeroporti. Sapete che alcuni dei nuovi aeroporti, soprattutto in Asia, sono veramente hanno delle architetture spettacolari. In particolare, poi qui Avvenire parla del Terminal 3 dell'aeroporto di Shenzhen, una delle più grandi città della Cina, che è stato disegnato dall'architetto italiano Massimiliano Fuxas. Ma è proprio la riflessione sugli aeroporti in generale che è interessante, scrive Avvenire. Un tempo erano non luoghi, cioè spazi dove si avevano incontri casuali dettati dalla necessità di muoversi da un posto a un altro, ma da qualche tempo sono sempre più grandi e organizzati come isole da vivere fra ecologia e svago. I casi presi in esame sono quelli del nuovo aeroporto di Dallas, quello di Città del Messico e poi, come dicevamo, quello di Shenzhen. Su Libero, chi si rivede, chi si rilegge? Roberto Formigoni, ex governatore della Lombardia, è stato appunto governatore della Lombardia per 18 anni, adesso è molti, molti mesi che sta in silenzio, anche perché è coinvolto in alcune inchieste, probabilmente vuole tenere un basso profilo, però ha dato questa intervista a Libero sul tema della riforma della sanità. Sapete che il governatore della Lombardia Maroni ha appena presentato la sua riforma della sanità, una riforma che è stata approvata dalla Lega e da Forza Italia ed è invece osteggiata dal nuovo centrodestra. Riforma illiberale, la definisce Formigoni. Maroni: non distrugga la sanità dei record. Sapete che la prima voce di spesa di tutto lo Stato italiano e anche quindi delle regioni è la sanità, quindi è naturalmente una voce di spesa importante, perché è una cosa importantissima per tutti noi, ma purtroppo è anche dove ci sono tanti soldi, c'è anche sempre il rischio di irregolarità, ed è anche un po' per correggere, per evitare alcuni di questi rischi, ha detto Maroni, che sono stati fatti alcuni cambiamenti che a Formigoni non piacciono. Per esempio, chiede Massimo Costa, l'impatto sui conti della regione? L'introduzione dei CDA nelle agenzie rischia di aumentare i costi e le poltrone, rallentando le decisioni. Il direttore generale risponde da solo, mentre nei CDA spesso si rimpallano le responsabilità. Questo era uno dei limiti della sanità di 30 anni fa, che avevamo cambiato proprio per renderla più efficiente, perché sapete che cambia un po' la struttura che adesso diventano delle, appunto, vengono chiamate agenzie, quindi delle società che gestiscono gli ospedali o le in generale unità sanitarie, che possono comprendere anche più di un ospedale. Dal giornale vi segnalo l'intervista della domenica di Stefano Lorenzetto, questa serie che si chiama Tipi Italiani, pensate, è arrivata alla 734esima puntata. Oggi Lorenzetto intervista Alberto Galla, che è un libraio di Vicenza ed è anche presidente dell'ALI, e racconta aneddoti gustosissimi, ma è veramente un inno all'amore per i libri. Per esempio, gli chiede Stefano Lorenzetto, le recensioni sui giornali contano? Dipende dai recensori, risponde Galla. E Lorenzetto: Indro Montanelli affidava a Mario Cervi un nuovo libro ricevuto da uno scrittore amico dicendogli: è così brutto che se ne può parlare bene. E Galla risponde: oggi il recensore più quotato è Antonio Dorrico, che sapete scrive su 7 del Corriere della Sera, il quale ogni tanto genera anche mostri, lo dico ironicamente. Penso per esempio al compianto Giorgio Faletti, da tutti snobbato all'inizio. Qui la storia, non so se tutti la ricordano, è che appunto fu grazie a una recensione entusiastica di Antonio Dorrico che il libro Io uccido, il primo vero bestseller di Giorgio Faletti, diventò per l'appunto un bestseller. Un evergreen tuttora richiesto, Il Gattopardo. Questo mi fa veramente piacere, perché anche secondo me è uno dei libri più belli della letteratura italiana del secolo scorso. E poi, quali premi letterari apprezza? Il Campiello mi pare il meno sputtanato, scusate la parola, ma la usa Galla, e perché poi aggiunge: fossi romano però direi Lo Strega. Ma veniamo alla domenica del Sole 24 Ore, il supplemento culturale del nostro quotidiano, e cominciamo come sempre dalla lettura del breviario di Gianfranco Ravasi, che oggi giustamente si intitola A fine anno. La citazione scelta da Gianfranco Ravasi viene da un diario di Jules Renard ed è: ogni anno un difetto in più, ecco il solo nostro progresso. E scrive poi Ravasi: stanno scoccando le ultime ore di questo anno. Dovevamo trovare un'ultima pagina per il nostro breviario. Siamo ricorsi al diario di quel Jules Renard che ha commosso gli adolescenti della mia generazione col suo triste e amaro Pel di Carota, un libro del 1894. La considerazione può apparire venata di moralismo, ma basta un po' di sincerità e di autocritica per scoprirne la verità. Certo, può essere una verità parziale, perché forse qualche azione buona l'abbiamo pur compiuta in così tanti giorni. Tuttavia, con franchezza, si deve riconoscere che la deriva della superficialità non ci fa badare allo sbocciare dei fiori maligni della zizzania nel campo di grano delle nostre virtù. Forse non sono vizi espliciti e conclamati, ma solo difetti, mancanze, omissioni, sbagli. Ma il titolo principale della copertina è in realtà dedicato a un libro che è appena uscito per la Nino Aragno Editore, che si intitola Anni del disincanto, carteggio 1967-1981, tra Paolo Baffi e Arturo Carlo Jemolo, lo sconforto degli eroi borghesi. Ed è un po' quel secondo questa corrispondenza tra Paolo Baffi, che fu governatore della Banca d'Italia, e il giurista Arturo Carlo Jemolo, che è uno di quei 12 docenti che non firmarono l'atto di fedeltà al fascismo, quelli che appunto dissero no. C'è un libro di Giorgio Boatti su questi 12 professori. Giorgio Boatti, tra l'altro, lo ricorderete, intervistato da Stefano Lorenzetto domenica scorsa, nei suoi appunto uno dei tipi italiani. L'articolo di Mauro Campus ci racconta un po' questo libro, questo epistolario che testimonia, scrive Campus, le idee e i valori di due intellettuali di fronte alla sconfitta della ragione nel paese in quegli anni. Il memorandum del nostro direttore Roberto Napoletano, nostro del Sole 24 Ore di Radio 24, si intitola Le traversine di Francesco, il problema di dentro degli italiani. È un po' un resoconto di una cena di auguri natalizi che il direttore ha avuto con Alberto Negri, che è storico corrispondente di guerra del Sole 24 Ore, e con Giovanni Minoli, che gli ascoltatori di Radio 24 conoscono bene, dove si è conclusa comunque con una nota di speranza. E conclude Roberto Napoletano: gli italiani che si industriano, di cui parlava per esempio Modigliani molto tempo fa, sono ancora tanti, per fortuna, un popolo che aspetta solo di potersi riconoscere. Allora, insomma, speriamo che il 2015 sia un anno della svolta per tantissimi motivi. Alla pagina 21 del Domenicale vi segnalo questa recensione di Ernesto Ferrero a un libro di Edoardo Albinati, che racconta senza particolari autocensure che cosa vuol dire per lui scrivere. Quindi, Oro colato, 8 lezioni sulla materia della scrittura, trattate dall'autore, scrive Ferrero, senza piglio da inutile pedagogia o con stile troppo asseverativo. Mi sacrifico, scrivo. Per chi avrà la fortuna magari di andare a Londra in questi giorni, Alvar González Palacios recensisce invece la mostra dedicata a Rembrandt, intitolata Rembrandt The Late Works, che è allestita fino al 18 gennaio alla National Gallery di Londra, e poi sarà al Rijksmuseum di Amsterdam dal 12 febbraio al 17 maggio. In mostra alla National Gallery le ultime opere del grande maestro, rassegna sublime, catalogo pessimo, secondo Alvarez Palacios. Torniamo un attimo sulla Gazzetta, perché c'è una pagina intera dedicata a Alan Turing, che sapete è un grandissimo matematico. Sta per uscire il 1 gennaio, uscirà questo film di Imitation Game, che è la sua biografia, o comunque che racconta la parte della sua vita in cui Turing fu chiamato a Princeton, fu chiamato dal governo inglese a risolvere il famoso il codice segreto che usavano i tedeschi per comunicare tra di loro. E però fu anche un grande maratoneta, e qui anche un po' lo spunto per la Gazzetta dello Sport per occuparsene: genio e maratoneta, morto perché era gay, perché all'epoca era illegale essere omosessuali, e nel 1954 per non riusciva più a sopportare, almeno così si ipotizza naturalmente, perché poi cosa attraversa la mente di una persona, in particolare la mente di una persona che decide di togliersi la vita, credo che nessuno possa saperlo o ipotizzarlo. Nel 1954 appunto si tolse la vita, perché la vita da omosessuale più o meno dichiarato era diventata evidentemente insopportabile. Questa è la regia del film di Imitation Game, che è stato, tra l'altro, ha vinto come miglior film al Toronto Film Festival, e ha avuto 5 nomination per i Golden Globe. È di un regista norvegese, Morten Tildum. Il protagonista è Benedict Cumberbatch, che forse avete già visto nel film dedicato a Julian Assange. La Domenica, il supplemento della Repubblica, la copertina è dedicata a Fabiola Gianotti, la fisica che sarà la prima donna a dirigere il CERN, un'italiana, e Dario Crestodina l'ha incontrata, la signora dell'universo. Ha raccontato un po' le sue passioni, i suoi sogni, anche le sue aspettative per questo ruolo che l'attende. Leonetta Bentivoglio, invece, una storica critica musicale della Repubblica, ci racconta quello che sarà il concerto di Capodanno. Sapete, il tradizionale concerto di Vienna di Capodanno, viaggio tra i segreti dell'orchestra più celebre del mondo, in attesa di un altro giro di valzer per accogliere il 2015 sul palco. Anche quest'anno ci sarà Zubin Mehta. Poi, molto divertente, pagine 36-37 La Repubblica, le 10 cose che forse spariranno nei prossimi 10 anni, tra cui le chiavi, i CD, gli assegni, i biglietti, addirittura le monete. Insomma, vedremo. Poi forse varrebbe la pena di tenere via queste pagine, chiuderle in una busta e vedere se tra 10 anni veramente saranno spariti tutti questi oggetti. Poi un incontro di Natalia Aspesi con Marco Pesatori, sapete, l'astrologo, che è molto seguito anche da chi nega di leggere gli oroscopi, e vi do così una dritta: secondo lui il segno che avrà la vita migliore, più felice, con il maggior numero di sorprese positive nel 2015 è il segno del Cancro. A proposito di librai, una bellissima intervista della serie Straparlando di Antonio Gnoli a Romano Montroni, che era stato il direttore delle librerie Feltrinelli per moltissimi anni. L'ultimissima segnalazione, la rubrica La poesia del mondo di Walter Siti, oggi dedicata a niente po' di meno che a Dante, quel dio che Dante non può descrivere, e in particolare Walter Siti ci parla della terza cantica, Il paradiso. Era l'ultima segnalazione, grazie a Paolo Corleoni in regia per avermi tenuto nei tempi. Ancora una buona domenica da Giulia Crivelli. We'll be right back.